Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. Ci siamo, è il primo giorno di scuola, perché è il primo sabato in diretta con Il sabato del villaggio. Allora, tecnicamente non sono ancora le 15, non sincronizzate ancora l'orologio, non pensiate di essere un minuto sbagliati, sono le 14, 59 minuti e 45 secondi, quindi con qualche secondo in anticipo sulle nostre canoniche 15, diamo il via al sabato del villaggio. Cos'è il sabato del villaggio? Lo devo dire come ogni sabato? Vabbè, insomma, il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale, questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. Insomma, i nostri liberi consigli per il fine settimana. No, non lo so a memoria, lo leggo dal foglio come ogni anno. E questa per la terza stagione. Nella terza ora, poi, dalle 17 alle 18, come sempre, il nostro consueto appuntamento con RadioTube in diretta con Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Noi siamo qui in diretta, non mi stanco mai di ripetervelo, quindi ci sono dei modi molto semplici per interagire con noi. Gli sms o i messaggi WhatsApp, il numero è 349-238-6666. 349-238-6666, invece @MartaCagnola è il mio account di Twitter. Ma ora scopriamo i temi di questa puntata, che è un po' il nostro primo giorno di scuola, e quindi andiamo un po' a vedere quali saranno le tendenze della prossima stagione. Beh, l'appuntamento con il gastronauta per scoprire tutte le tendenze che ci aspettano al rientro in fatto di cibi, di ristoranti. Anche qui ci sono delle mode che vengono e che vanno, chissà cosa ci riserva la prossima stagione. Parliamo poi di tecnologie. Ovviamente sappiamo che alcune aziende in questi giorni hanno presentato le loro novità in fatto di telefonia, chissà quali aziende sono. Certo che lanceranno le prossime tendenze per i prossimi mesi. Poi il cinema con tutte le novità in sala questo fine settimana, ma prima, la mostra di Venezia si era aperta con Gabriele Muccino, con L'estate addosso, che atteniamo presto al cinema. La prossima settimana ne parleremo, la prossima settimana. Oggi però è Venezia, si chiude. L'estate addosso, un anno è già passato, la spiaggia si è ristretta ancora a un metro. Le mareggiate, le code di balena, il cielo senza luna. L'estate addosso, il gesso a un braccio rotto, la voglia di tuffarsi, guardando entrare in acqua tutti gli altri. Ma lei mi ha visto che sono qui da solo e forse parlerà con me. Canzoni estive, minacce radioattive, distanti come un viaggio in moto in due. Fino a un locale, aperto fino all'alba, ricordo di un futuro già vissuto da qualcuno. Prima che il vento si porti via tutto e che settembre ci porti una strana felicità, pensando ai cieli infuocati, ai brevi amori infiniti, respira questa libertà. E questa trasmissione si intitola Il sabato del villaggio. Secondo me il sabato del villaggio per eccellenza è quello del pomeriggio che precede la chiusura della mostra del cinema di Venezia, cioè oggi. La malinconia del Lido, sì, la gioia della festa, però senti già che tutto sta per finire, nonostante siamo ancora in pieno festival, in pieni festeggiamenti. Allora, siccome io sono partita da Venezia ieri sera per essere qui in tempo in studio, come l'anno scorso andiamo a chiedere gli umori del momento a un critico che è ancora lì, ligio fino all'ultimo momento, un amico del sabato del villaggio. Lo trovate su Bad Taste, su Wired, su My Movies, ma soprattutto su Twitter, così sapete tutto. Il suo account di Twitter è @gniola. Buongiorno Gabriele Niola, ciao Gabriele. Ciao Marta. Allora, umori, senti com'è questo sabato pomeriggio, sempre malinconia al Lido di Venezia prima della cerimonia delle 19? Eh sì, ruscio lento, un po' di vento, sì, una giornata di sole, ma attesa. Tutti stanno qua e sanno che si attende questa sera e non c'è nulla da fare, non ci sono più film in proiezione. È vero, non c'è più niente da fare, quindi la gente gira e aspettando, cercando critici di... Critici senza film, terribile, terribile. Critici senza film è praticamente la fine del mondo, proprio nel senso di conclusione. C'è un hobby dei critici, quelli che hanno voglia ancora di starsene a passeggiare, di capire chi è arrivato, chi non è arrivato, chi se ne va, se c'è qualcuno. Gli umori di questa vigilia di premiazione alle 19, quindi altro che, mancano pochissime ore. Sì, c'è l'allarmismo degli ultimi momenti, c'è chi giura di aver visto Damien Chazelle, autore di La La Land, c'è chi dice che Natalie Portman sta tornando, ha preso un biglietto aereo e sta tornando, ci sono tutte queste voci di corridoio. Io credo che quest'anno vediamo un premio americano, un leone americano. Quindi attenzione. Mancava dai tempi di Sofia Coppola, no? 2010. Esatto, perché quest'anno abbiamo tanti film americani, quindi questo, se noto statisticamente, gli dà una mano. Sono tutti molto belli, sono piaciuti un po' a tutti, sono tutti in corsa per l'Oscar, e quanto piacere questa mostra riuscire a legittimare un film che poi vince l'Oscar per prima, gli piacerebbe tantissimo. Come è successo per Gravity, come è successo negli ultimi anni un po' di volte, così dici, vedi che a Venezia scegliamo bene perché poi abbiamo vinto anche l'Oscar. Esatto, certo. Addirittura proprio i casi per Gravity e Bird però non avevano vinto qua, erano venuti ma senza vincere, quindi addirittura farli vincere gli piacerebbe tantissimo. Quindi La La Land e Jackie. Secondo me Jackie in pole position, perché come sappiamo Jackie bene, no, il problema delle giurie è che sono degli esseri umani che litigano, ognuno ha i suoi gusti. Allora spesso vince il film che non dispiace a nessuno, tutti quanti dicono ma sì, ci sto. Ah, quello, nessuno si mette di traverso per dire quello, esatto. Mai dovete passare e sul mio cadavere. Jackie è un film che può piacere un po' a tutti, mentre invece gli altri sono un film come Arrival, che è un film molto bello di fantascienza, però potrebbe mettere di traverso qualcuno, potrebbe non piacere, potrebbe... Invece Jackie no. Jackie, lo ricordiamo per chi non avesse sentito ad esempio Radio 24 in questi giorni, la storia di Jackie Kennedy nei giorni immediatamente successivi all'omicidio di Dallas, all'omicidio del marito, mentre La La Land un musical che aveva aperto, esatto, il festival. Beh, devo dire musical che vince Venezia, però anche quello sarebbe una vera rivoluzione, sarebbe la vera... Invece Jackie è un gesto di mezzo, perché è vero che è un film americano, è vero che c'è Natalie Portman, che è Jackie Kennedy, ma è diretto da Pablo Larraín, e già il fatto che non sapete questo nome vuol dire che è un autore molto, molto autoriale, molto da festa, è un autore che darebbe un colpo al cerchio e uno alla botte. Ci sono anche però dei cinefil che pensano, non so, un Konchalovsky, pure Konchalovsky è un bel film, te lo dico. Dai, è l'altro, sì. È l'outsider, quello, e attenzione perché quest'anno potrebbe esserci il grande colpaccio, potrebbe vincere il film di 4 ore che non ha visto nessuno della critica, allora, non c'era nessuno in sala. Allora, io purtroppo sono dovuta uscire prima perché avevo un collegamento con Roberta Giordano con Effetto Notte, fatto con piacere, però ovviamente ho dovuto abbandonare a un certo punto la sala. Mi stava piacendo un sacco, però Gabriele ha visto tutto. È un bel film, l'ho visto tutto, è molto bello, piace, e poi... Bianco e nero, 4 ore. Esatto, e ai giurati americani, qui quest'anno è Sam Mendes, che è inglese, però lavora a Hollywood, ai giurati che lavorano a Hollywood piace tanto premiare questi film che non c'entrano niente con Hollywood, far vedere che loro hanno anche questo tipo di cultura cinefila, raffinata. Questo filmone da 4 ore, che ripeto è molto bello e che in pochissimi hanno visto, potrebbe fare il colpaccio, e allora sarà diverso per i giornali domani. Quanti erano fuori dalla sala quando è finito il film di Love Diaz? Cioè... Quanti ne erano rimasti? Diciamo che la sala era piena per un quarto. Ok. Allora, la domanda classica è, gli italiani, perché noi ci immaginiamo sempre alla Mostra del Cinema di Venezia, la giuria che si riunisce dice, vabbè, dai, un film a un italiano, che cosa diamo? Un premio a un italiano, esatto. Cosa diamo? C'è questa grande leggenda del contentino italiano, che è una legge non scritta di Venezia, cioè qualcosa devono prendere gli italiani. Io non so se sia vera, però in effetti capita spesso. Quest'anno, secondo me, è andata malissimo per noi, malissimo. Film che non sono piaciuti. Le uniche speranze che abbiamo di un premio sono il premio per gli attori giovani, c'è un premio apposito che viene dato, il premio Mastroianni, viene dato agli attori giovani, che noi abbiamo molti attori giovani, ci stanno quelli di Piuma, quelli di questi giorni, e non sono neanche male, quindi potrebbero vincere. E forse Spira Mirabilis qualcosa può prendere, un film che io non ho amato per niente, però è un po' un film a forma di festival. Sì, un documentario complesso, molto non anche di cinefilo. Non narrativo, questo già la dice lunga, no? Cioè, un film che non racconta niente, ma mostra immagini documentaristiche. Un film che devi starci dentro almeno un'ora per capire dove ti sta portando, cosa ti sta raccontando, perché poi nessuno parla. Esatto, dopo che ci stavo dentro un'ora ti puoi cominciare ad arrabbiare. Ecco, a me Piuma non era dispiaciuto, lo trovo una commedia, la trovo una commedia molto carina, molto fresca, molto leggera. Certo, poi tutti dicono sì, ma non era da festival, però ne parleremo quando esce, perché secondo me è una bella rivoluzione se vincesse un film così, cosa farebbe arrabbiare veramente tante persone. Ma i premi di Gabriele Niola a chi vanno? Allora, io secondo me il film che veramente, poi lo vedrete perché uscirà, è un film grosso, che è veramente impressionante, è Arrival. E Arrival è un film di fantascienza diretto da questo regista franco-canadese che ha fatto tanti film d'autore, tanti film da Cannes, così, e adesso sta a Hollywood e fa con Amy Adams e Jeremy Renner un film con gli alieni, e vedrete che bello, questo è il nuovo cinema d'autore. È questo qua, è quello dei grandi autori europei o nordamericani che fanno cinema commerciale per incassare e uniscono le due cose, gli alieni e un'idea molto, molto elevata, molto pensosa, molto intellettuale sulla comprensione dell'altro, quanto facciamo fatica, quanta paura abbiamo di comprendere l'altro. Allora, qualcuno dice che Amy Adams potrebbe aspirare al premio come miglior attrice insieme a Natalie Portman. Ma non sottovalutate mai che ci sono una serie di attori che magari non conoscete, magari non è, che sono fortissimi. Qui abbiamo visto in Il Ciudadano Illustre, che è un film che io preferisco. Adesso ti chiedo qualcosa poi di questo film, perché tutti mi hanno detto bellissimo, bellissimo, io non ho fatto in tempo a vederlo, non vedo l'ora di recuperarlo. Sì, che consiglio a tutti. E c'è un protagonista bravissimo, un attore fantastico argentino, bravissimo. Nel film di 4 ore in bianco e nero c'è un'attrice molto molto brava, un'attrice filippina molto brava, e ripeto, dovete sempre immaginare che ci sono giurie fatte da esseri umani che hanno magari la voglia di premiare qualcuno che solitamente non va a premi, no? Amy Adams magari lo prenderà un altro premio da qualche altro, sono certo, attori molto celebrati, ma invece è un'attrice filippina, ma quando lo prende un premio internazionale? Qui è molto brava, quindi potrebbe facilmente arrivare a premi. Senti, abbiamo parlato di questo Cittadino Illustre, film argentino di cui tutti mi hanno detto meraviglie, infatti non vedo l'ora di recuperarlo. Esatto, e io lo consiglio a tutti, vedrete che in qualche maniera lo faranno uscire, perché è un film talmente carino, è una commedia innanzitutto, una commedia intelligentissima su questo scrittore argentino che vince il Nobel, e già lui, già questo è divertente, quando va a ritirare il Nobel è disperato, perché questo certifica che lui è morto artisticamente, quando la gente vince il Nobel è finito, è la fine, non farei più nulla di interessante, lui è disperato, torna nel suo paesino da cui era scappato, dalla provincia, e lì si confronta con un inferno di kitsch che fa ridere tantissimo, questi paesanotti che lo celebrano in maniere grossolane, sbagliate, poi in fondo non gliene frega niente di lui, bene o male, e vive delle avventure esilaranti che ci dicono tantissimo su un po' come siamo fatti. A parte, è impressionante quanti i paesani argentini somiglino ai paesani italiani, veramente sono le stesse identiche cose. E poi è bellissimo la lotta di quest'uomo per mantenere una dignità in un ambiente che sembra volergli levare. Senti, per quanto riguarda invece i film fuori concorso, ieri sera c'è stato questo Magnifici 7 remake, non so neanche se dire remake, di una pellicola classica che aveva un cast pazzesco tanti tanti anni fa, più di 50 anni fa, cosa diciamo? Anche perché poi questi sono particolarmente attesi in sala. Certo, e qui quest'anno, per grande merito di questa mostra, abbiamo visto tanti film che arriveranno in sala. Per esempio, adesso procediamo al volo, ci sta Hacksaw Ridge, film di guerra di Mel Gibson con Andrew Garfield, che è un gran bel film di guerra, sarà pure questo un film protagonista della prossima stagione. Ma comunque, Magnifici 7, che nella stagione dei remake, che questi anni che noi viviamo, è un remake del remake, perché vi ricorderete che Magnifici 7 era il remake di 7 Samurai, quindi sì, siamo al remake di secondo grado. E io, insomma, a me mi ha deluso, io sono un amante di questi film di spari, di botte, di grande avventura e di epica, ma qui manca la grande avventura e l'epica, e proprio non si capiscono bene le motivazioni di questi cowboy, che sono la cosa più bella, questi qui che si sacrificano per gli altri. E vi dico una cosa che vi farà capire quanto manca l'epica: la grande colonna sonora, il tema molto famoso dei Magnifici 7, si sente solo sui titoli di coda. No, non vabbè, ma non si fa così, non scusa. Si fa, no. allora volete farmi arrabbiare, però ha una particolarità forte, è un West con un cast multiraziale, tra i sette ci stanno un afroamericano che è Denzel Washington, ci stanno un indiano americano, ci sta un coreano, ovviamente anche dei bianchi, e forse una storia omosessuale, forse molto suggerita, molto così, allusione. Sai a me cosa è piaciuto tra queste proiezioni speciali fuori concorso? È Pets, gli animaletti, esatto. Dello stesso studio dei Minions. A me sono piaciuti un sacco. Altra grande rivoluzione di questa gestione di Venezia, la gestione del direttore Barbera, è sta lottando come un demonio per mantenere l'anima autoriale, no? I film di Quattro Ore bianco e nero, molto bello, ma anche avvicinarsi al pubblico. Allora la fantascienza in concorso, ma anche una sezione nuova che si chiama Il cinema nel giardino, con una sala nuova dedicata solamente a film per il pubblico. E qui appunto abbiamo visto addirittura un cartone animato per bambini molto carino, Pets, che uscirà in sala tra un po', insomma un classico che in un festival internazionale non avremmo mai visto anni fa e che invece sta cominciando a diventare il nuovo festival. Bene, sono molto contenta. Gabriele, allora se tu dovessi rivedere questa sera dopo la premiazione un film e dicessi questo me lo riguardo subito... Il Ciudadano Illustre. Ciudadano Illustre, quindi teniamo a mente questo film argentino, Il Cittadino Illustre, poi non so come lo tradurranno, ma probabilmente così, e io vi terrò aggiornati su quando esce in sala, perché secondo me uscirà anche in Italia. E grazie. Vi dico una cosa, sì. prima di finire questo collegamento, sì. In Il Cittadino Illustre ci sta la presentazione PowerPoint più esilarante che io abbia mai visto nel cinema. Me l'ha detto anche Maria Rosa Mancuso del Foglio, mi ha detto, e poi c'è la scena del PowerPoint. Ragazzi, io devo assolutamente vederlo perché voglio vedere questa scena del PowerPoint. Non so bene cosa significhi, ma so che sarà molto divertente. Allora, ti leggiamo su Bad Taste, su Wired, su My Movies. Ti troviamo su Twitter con il tuo account Giniola. Grazie Gabriele Niola, alla prossima! Grazie, ciao Marta. Il sabato del villaggio. E i vostri messaggi al 349-238-6666. C'è chi mi chiede del film di 4 ore in bianco e nero a Venezia, che è La corazzata Potemkin. No, ti assicuro, io non sono masochista. È proprio bello, si intitola The Women Who Left, The Woman Who Left, la donna che se n'è andata, ed è un film di Lav Diaz, regista filippino, 3 ore e 45 per essere precisi, ma Lav Diaz ha portato anche film da 8-12 ore in giro, quindi 3 ore, 4 ore meno un quarto non è mica tanto per Lav Diaz. Il film è bellissimo, davvero, The Woman Who Left. Invece per quanto riguarda i messaggi è arrivato un sms molto carino al 349-238-6666 che dice così: ciao Marta, questo è solo un test per sapere se ho usato il numero giusto. Sì, chiunque tu sia, hai usato il numero giusto, quindi adesso puoi scrivere il messaggio che volevi scriverci. E quindi adesso è il momento di aprire un'altra pagina del nostro Sabato del Villaggio. Come sempre a quest'ora parliamo delle tendenze in fatto di cibo, di gastronomia, di ristoranti, e il nostro ospite vorrei accoglierlo così. Non c'è più la vela bianca, con l'inverno c'è il gabbiano, e l'estate del mio amore è un ricordo ormai lontano. L'estate del mio amore è un ricordo ormai lontano. E quanti sono due... È un sacco di tempo che voglio ballare un liscio con lui. Niente, non ci siamo ancora riusciti. Ciao mare, cantava questa canzone dalla Romagna con furore. Davide Paolini, ciao Davide! Ciao, mi manca la piadina da qua, è un bicchiere di Sanslesa e poi di giocare a Marafone, poi siamo a posto, siamo in Romagna. Io purtroppo posto. Questo sono in Sicilia, non in Romagna, ma purtroppo, sono in Sicilia, altro che purtroppo. Terra. No, e quindi però c'è, diciamo che la tendenza del liscio e della piadina secondo me sta tornando, La piadina, vedi? La piadina sta imperversando, perché nelle città sempre di più, fuori dalla Romagna ci sono le piadinerie, ma alcune sono anche sofisticate, che fanno delle piadine dentro con dei prodotti, diciamo, di grandissima qualità. Però potrebbe anche essere una tendenza del futuro, perché è un pane sano, ma le tendenze. Ecco, io ti voglio fare uno spaccato sociologico, tanto per iniziare i nostri sabati, che secondo me le tendenze ormai stanno cambiando a secondo degli indirizzi salutistici. Non è più un tempo che andavano molto, diciamo, sulle mode, si vedeva qualcosa al cinema oppure c'era qualche personaggio particolare che lanciava un prodotto. Oggi purtroppo sono nate le tribù, io le chiamo le tribù, sono nate le tribù dei vegetariani, dei vegani, di quelli che mangiano, dei crudisti, insomma ci sono tantissime tribù, e ci sono tantissime tribù che purtroppo sono ricollegate anche a dei problemi di salute, ad esempio le intolleranze, e queste ormai condizionano molto il consumatore. Un tempo non lo condizionavano come ad oggi, e allora cos'è che va? Cioè, se dovessi dare una tendenza, diciamo che va forte il gluten free, cioè tutti quei prodotti che non contengono glutine. Però su questo io vorrei aprire una parentesi, così dare anche un'informazione ai nostri ascoltatori, che il gluten free è perfetto, i prodotti sono perfetti per chi ha delle intolleranze, ma chi non ha intolleranze è inutile, anzi è dannoso, perché a parità di un prodotto convenzionale uguale, i prodotti gluten free contengono 5 volte i grassi in maggiore o superiore. Perché? Perché li devono tenere, bisogna che siano tenuti assieme dai grassi. Accidenti. In qualche maniera, perché sennò il prodotto non può essere messo in vendita. Quindi diciamo sì, oggi c'è questa moda, non c'è niente da fare. Io sento tantissima gente che dice vado a comprare i prodotti gluten free e gluten free non avendone bisogno, bisogno, però ormai è diventato, cioè il biologico è un'altra cosa, cioè il biologico è un fatto serio che non è una tendenza, anche se uno va a vedere i consumi posso dire che è la tendenza del momento, perché i prodotti biologici proprio sono usciti l'altro giorno. Ti sentiamo poco, Davide. I prodotti biologici sono cresciuti a dismisura negli ultimi anni, proprio sono usciti i dati qualche giorno fa. Poi c'è questa manifestazione a Bologna che si chiama Sana, che è un po' la fiera del biologico. Quindi sono cresciuti, cioè sono prodotti sani indubbiamente. Ecco, quella può essere identificata come una tendenza vera e propria. L'altra tendenza che io vedo sempre di più è il pesce. Ma perché il pesce? Uno dice, veniva consumato anche negli anni passati, nei mesi passati, è vero. Però ormai sono nate, ad esempio, catene di panini al pesce, col pesce. Cosa che prima non c'erano, c'erano solamente qua e là, magari in qualche città marinara. Oggi invece a Milano, a Firenze, in tante altre città c'è il panino marino, chiamiamolo così. Quindi io credo che anche questa sia una tendenza che dipende da questa ondata salutistica, nel senso che molta gente vede nel pesce un qualcosa di più sano rispetto ad esempio ai salumi, perché un tempo i salumi, anche oggi, i salumi sono a base di salumi e di formaggi, panini. E quindi il pesce sta, poi stanno nascendo moltissimi locali dove, diciamo, si mangia direttamente il pesce prodotto dietro al banco. Ecco, qui c'è l'altra tendenza, che lo street food sta assumendo un ruolo completamente diverso, cioè mentre prima tu sei stato un po' tra i primi, forse il primo a sottolineare questa tendenza, già come scoperta quando gli altri ancora si concentravano solo sui ristoranti. Io lo posso dire, Davide Paolin è stato uno proprio dei primi a segnalarci l'importanza dello street food e dello street food difficilissimo, fatto bene. Sì, ma è difficile, poi secondo me è un po' degenerato. Secondo me è proprio, non è più tendenza, è la moda. Ecco, diciamo che dal punto di vista, se vogliamo, sociologico, la tendenza poi a un certo punto o si esaurisce o diventa moda. Quello dello street food è diventato una moda, cioè i carretti, o chiamali tu app car o come si vuole, oggi sono innumerevoli. Ma basta andare alla stazione di Milano, la stazione centrale di Milano, e proprio all'ingresso cosa si trovano? Si trovano tre esempi di street food, il che vuol dire che è diventato veramente un fenomeno incredibile. Non ormai passa anche giorno... sotto la sede del Sole 24 Ore all'ora di pranzo ne abbiamo parcheggiati parecchi tutti i giorni. Ecco, quello magari per chi lavora lì è una ventata, nel senso che invece di fare chilometri probabilmente se lo trova sotto. Questa è un'esigenza, in effetti, un'esigenza di molte città dove ci sono gli uffici, però ormai è dilagato. Devo dire che i primi diciamo a peccare o carrozzoni con il mangiare erano allo stadio, insomma diciamo la porchetta mangiata allo stadio, il panino mangiato allo stadio come così prima di entrare era un fatto abbastanza normale, come i tre carretti a Firenze dei panini con il lampredotto. Ora c'è una tendenza però, mentre la definizione di street food è avere una finestra sulla strada, perché questa è la definizione che dà la FAO, ormai sono diventati dei veri e propri locali. Cioè, quindi c'è stata, secondo me, una evoluzione che chi ha ben capito con lo street food stava imperversando. Cosa ha fatto? Se l'è portato dentro, ha cominciato a fare i posti a sedere, ha cominciato a aumentare i prezzi. Probabilmente un minimo più di igiene c'è, perché non dimentichiamo che quando tu prendi un qualcosa, diciamo, all'aperto e ti danno il panino o ti danno qualche cos'altro e poi con la stessa mano ti prendono e ti danno il resto magari di monete, insomma, è igienico fino a un certo punto. Però io credo che sempre di più lo street food entrerà, ma validerà, diciamo, lo sportello esterno ed entrerà dentro. Certo. In molti casi sta diventando tapas, cioè in molti casi stiamo in un certo senso ripercorrendo la strada della Spagna, dei piccoli bogadiglio, come vengono chiamati in Spagna, dei piccoli tocchettini di cose che già però sono a Venezia da una vita, perché a Venezia, diciamo... I bacari sono in ogni angolo. Ecco, secondo me anche nel resto dell'Italia ci sarà una proliferazione di questi locali, anche perché la gente si è stancata di stare ore a tavola, vuole mangiare molte volte, diciamo, bene ma velocemente, senza le litanie del maître che recita in canto gregoriano il menù e bisogna aspettare un'ora e mezzo prima che arrivino quelli che io chiamo i santini, ovvero sia quello che è l'omaggio dello chef. Quindi credo che questo sicuramente potrebbe diventare una tendenza. Poi se diventerà moda o meno non lo so. Io credo però che oggi, e lo ripeto, le mode siano molto indirizzate dal discorso delle tribù, delle varie tribù che stanno nascendo proprio soprattutto dal punto di vista salutistico o del wellness, se vogliamo essere alla moda, chiamiamole così, e sempre più si va in questa direzione. Bene. Come c'è sempre... Bene, nel senso che mi togli la parola? No, nel senso mangiamo sempre meglio. Mangiamo sempre meglio e senza esagerare, però come dicevi, sì. Un'altra tendenza ormai è quella del pane con il lievito naturale, certo. O con chiamiamolo come vuoi. Ormai se uno entra in una panetteria non c'è signora, signorina o signore che non dicono voglio il pane, ma c'è la pasta madre e tutti chiedono, facendo grande confusione tra pasta madre e lievito naturale, perché il lievito naturale è anche il lievito di birra, quindi se il panettiere risponde sì, può darsi che l'abbia fatto anche con il lievito di birra, che poi non è la fine del mondo, assolutamente non è che non sia sano, magari non ha quel profumo acido che profuma il lievito madre, così pure nelle pizze, così pure nel panettone, nella pasticceria, però per carità, ci sono cose anche sane che ormai non sono tendenza, però rimangono assolutamente sane. Davide Carlo da Latina ci scrive al 349-238-6666: quando c'è Davide Paolini io vengo assediato dalla fame, dal gusto meraviglioso. Carlo, se hai qualche curiosità in particolare, lo dico anche agli altri ascoltatori, questo è il primo giorno di scuola anche per Davide Paolini, però se volete magari qualche argomento al 349-238-6666 io giro tutte le segnalazioni a Davide, perché se c'è qualcosa che vi incuriosisce, qualche tendenza in particolare, Davide, io ti giro i suggerimenti, va bene? Ma volentieri, però questo signore che gli venga fame alle 3:30, devo dire insomma che o non ha mangiato o è veramente uno che mangia molto. Però Davide, te l'ho detto, quando parli tu io già mi sento un po' di voglia di merenda, perlomeno. Bene, magari un argomento futuro potrebbe essere se esiste ancora o meno la merenda. Ecco. E se esiste ancora, qual è la merenda? Perché io credo che ormai la merenda, insomma, rispetto al passato, quando si faceva, io facevo la merenda con pane, vino e zucchero sopra, insomma, quindi, oppure anche con l'olio e un po' di conserva di pomodoro spalmata sopra. Oggi non lo so, forse oggi si mangiano ancora diciamo, quelle cose che vengono bandite ogni giorno dai dietologi. Dai, allora facciamo, quindi, che facciamo la merenda la prossima settimana. Parliamo di merenda. Parliamo di merenda. È venuta così. Forza la prossima settimana parliamo di merenda. Mi piace. Davide, bene, grazie per essere stato con noi. Un abbraccio a Davide Paolini. Allora, 349-238-6666. Ah, beh, c'è anche un bel messaggio da Gianni da Milano. Poi te lo giro, Davide. Poi ti giro anche tutte queste domande che arrivano, io te le giro. 349-238-6666 per gli SMS e per i WhatsApp. Noi ci sentiamo tra pochissimo perché dobbiamo parlare di tecnologia. Pierluigi Pardo, confesso che ho perso il numero delle stagioni. Hai perso il conto perché abbiamo una marea di cose: la Champions League, l'Europa League, il campionato, il calcio internazionale, e la Formula 1 che finisce, il ciclismo che non finisce mai, il MotoGP, il campionato di calcio, tutti i giorni, tutti convocati. Guarda, è facile, tutti i giorni, tutti convocati, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15:30. C'è anche De Luca, è il nostro autore, ma certamente siamo ormai una squadra affiatata, anche se ho perso il conto delle stagioni di tutti. Una squadra fortissimi. Il sabato del villaggio. E al 349-238-6666 sono arrivati sia via SMS sia WhatsApp un po' di segnalazioni di argomenti che vorreste che noi trattassimo con Davide Paolini. Io vi ho promesso, gli giro tutti i suggerimenti per le prossime puntate, li mando tutti a Davide Paolini. Adesso invece è il momento di parlare di tecnologia. Ho detto, questo è il primo giorno di scuola per il nostro Sabato del Villaggio, per la terza edizione del Sabato del Villaggio. Noi parliamo di tutte le tendenze ogni settimana e quindi, come primo giorno di scuola, il filo conduttore sarà un po' le tendenze che ci accompagneranno per tutto l'anno a venire. Ci sono state delle presentazioni molto importanti questa settimana che davvero segneranno un sacco di tendenze in fatto di tecnologia, e io vorrei introdurle così. Alabama, Lynyrd Skynyrd, pezzo fantastico della storia del rock. Mi hanno detto, perché io ero a Venezia quindi non ho seguito tutto, infatti adesso mi faccio spiegare tutto bene, che Tim Cook, che è a capo di Apple, lo sappiamo, da 5 anni, è andato alla presentazione dell'iPhone 7 a bordo del Carpool Karaoke di James Corden, programma di grandissimo successo, anche qua grande tendenza. Già in Italia va in onda la versione di Sky, sta per arrivare quella di Rai, ma i diritti originali li ha presi Mediaset e quindi avremo probabilmente tre trasmissioni di Carpool Karaoke, quindi conduttore che guida e ospiti che cantano. Ma non voglio divagare troppo, c'era a bordo di questo Carpool Karaoke cantando Sweet Home Alabama Tim Cook per parlare delle novità dell'iPhone 7. Siccome io ero a Venezia e ho letto poche cose, voglio aggiornarmi, lo faccio per puro interesse personale, e chiamo in causa il nostro Enrico Pagliarini. Ciao Enrico. Buon pomeriggio. E gli ascoltatori diranno: ma non potevi telefonargli e fartele dire? E fartele raccontare, esatto. Beh, allora, ne hai parlato anche a 2024, sì. Sì, abbiamo dato ampio spazio, abbiamo aperto un dibattito, perché qui si aprono dei dibattiti. Allora, sì, hai fatto benissimo a ricordare questa scena iniziale di questa presentazione. Io quando ho visto questa scena ho detto: fantastico, bisognerebbe che gli amministratori delegati delle aziende italiane, adesso non voglio esagerare a dire le banche, però magari di qualche telecom operator, yes, di qualche società di telefonia mobile, ogni tanto scendessero un po' dal palcoscenico ovattato delle loro presentazioni e facessero delle cose così divertenti. Cioè, Tim Cook ha fatto il ragazzino, insomma, è stato fantastico, sono molto bravi. Gli americani su questo sono sempre molto bravi. Cioè, ho visto delle immagini con gli occhiali luminose, hanno fatto delle cose piuttosto buffe. Sono proprio dei, da un certo punto di vista, un po' dei buffoni, però, però devo dire divertente, no, sì, sono sì, bravissimi. Sì, sono sì, bravissimi. Sì. Dunque, allora, perché si apre il dibattito? Perché Apple ha fatto discutere per una cosa che non c'è sul nuovo iPhone 7. Cioè, per la prima volta, lo devo dire che questa volta tutte le indiscrezioni ci hanno indovinato, perché molti da tempo, da settimane, dicevano Apple non metterà il mini jack audio. Chi non conosce il mini jack audio? Allora, lo dico in italiano. Il buchino, quello tondo, non sì, quello quadrato per mettere per ricaricarlo. Il buchino tondo, quello per mettere le cuffie. Così l'abbiamo capito tutti. Però devo dire che effettivamente il mini jack audio è una roba che pensa che ha più di 10 anni. E adesso sono arrivati loro a toglierlo, voglio dire. Esatto, forse è esploso all'epoca del Walkman, certo. Però insomma è una delle cose più popolari, uno degli standard più popolari, perché qualsiasi strumento che emette audio, diciamo nel 99% dei casi, ha un'uscita mini jack dove ci infili le cuffie. Allora Apple ha deciso che è finita l'epoca del mini jack audio. E quindi qui si apre il dibattito, ci sono quelli che sono fortemente scontenti, ci sono quelli che invece dicono hanno fatto benissimo, perché bisogna guardare avanti e il futuro sarà un futuro diverso. E come sarà questo futuro? Allora, il futuro intanto può voglio sapere da che parte sta Enrico Pagliarini in questo dibattito. Allora, faccio molta fatica a prendere posizione, perché da un certo punto di vista capisco che ci sono delle buone ragioni per fare un passo in avanti, però effettivamente pensando alla diffusione di questo strumento e anche a tutte le cuffiette che io ho a casa, uno dice, beh, tutto questo, se uno diventa cliente del nuovo iPhone, non servirà più a nulla. Insomma, è difficile. Allora, a onor del vero, devo dire che Motorola con il Moto Z e una società cinese sconosciuta che si chiama Le Echo aveva già fatto questa mossa, probabilmente sapendo che Apple avrebbe tolto loro erano già passati alla soluzione senza mini jack. Però un po' come succede in alcuni luoghi di lavoro, dove tu dici una cosa, io dico una cosa, poi arriva quello che viene ritenuto il primo della classe, la dice lui e sembra che sia stato il primo a dirla, certo, lui, no? Certo. Sappiamo come succede. E quindi molti dicono Apple ha deciso di in realtà qualcuno l'aveva già fatto, però sappiamo poi anche come quota di mercato e come trainatore, come trendsetter della tecnologia, sicuramente Apple dice, insomma, ha delle parole molto importanti, molto forti. E quindi molti infatti si stanno chiedendo, ma gli altri, Samsung, Huawei, eccetera, eccetera, che cosa faranno? Cioè succederà come l'USB che l'ha tolto l'iPad, e però cioè, poi alla fine l'USB non è mica sparito. Non è sparito, esatto. Però qui si apre appunto un dibattito, e soprattutto molti dei più entusiasti dicono, ed effettivamente qui posso capire le ragioni, secondo me un po' avverrà questo, il futuro è wireless, senza fili, cioè noi ci abitueremo in poco tempo non tanto a trovare delle soluzioni alternative col filo, perché per il momento nella confezione dei nuovi iPhone 7 ci sarà una cuffietta con il cavo Lightning, che è una specie di cavetto USB, quello che esiste su tutti gli Android, su tutti gli altri telefoni. Apple ha una soluzione proprietaria che si chiama Lightning, che è il cavetto che viene utilizzato, certo, per ricaricare. Ecco, in quel caso ci sarà una cuffia che utilizza quel connettore, e ci sarà anche un adattatore per chi ha le vecchie cuffie, chiamiamole vecchie, che poi che insomma, praticamente vecchie, le cuffie che tu usi per tutti gli altri scopi, magari quelli appassionati come te all'audio le hanno comprate anche di una certa 800, qualità, sì, ecco, sì, sì. Quindi una sorta di adattatore che permetterà di utilizzarle anche con l'iPhone. Esatto, però effettivamente l'adattatore non è mai una cosa comodissima. Invece una cosa che potrebbe essere molto comoda, anche qui sappiamo che già oggi con il Bluetooth possiamo avere delle cuffiette wireless senza fili, e c'è chi dice che il futuro sarà cuffie senza fili, con naturalmente tutta una serie di problemi. Ah, e te anche le dico, tutta una te le faccio subito una domanda io. Fai l'elenco. Allora, sì. Bluetooth, quindi mi asciuga la batteria? Esattamente. Ah, ecco, allora vedi, qui il problema è duplice, cioè nel senso che devi tenere il Bluetooth acceso, quindi la batteria dello smartphone, diciamolo in termini generali, immaginando che un futuro molto, molto vicino sia insomma, questa tecnologia sia molto diffusa, cioè la cuffietta senza fili, quindi devi tenere acceso lo smartphone, quindi consuma batteria. Ma soprattutto attenzione, a questo punto oggi le cuffiette col filo sono senza batteria, cioè non si scaricano mai perché non esiste batteria. Le cuffiette senza fili devono avere un'alimentazione, E quindi anche loro Un'altra cosa da ricordarsi di caricare. Esattamente, quello è un problema. Poi c'è anche chi dice che saranno molto facili da perdere. No, allora io ho visto la foto, adesso io lo dico proprio. Io sono laica, perché io ho sia Android, ho tutto, no? Faccio un delirio perché ho tutto. Però quelle cuffiette piccoline, ma io le perderei dopo, ma un giorno non mi durano. E ho visto $150. 179 euro saranno. Cioè, mi sembra, adesso perché tu sei maschio e non lo sai, ma noi da bambini avevamo le scarpette delle Barbie che perdevamo in continuazione. Io le perderei come le scarpette delle Barbie. Allora, spieghiamo molto brevemente di cosa stiamo parlando. Allora, Apple ha preso questa decisione. Nella scatola dell'iPhone che uscirà la prossima settimana, è già ordinabile, uscirà la prossima settimana. Tra l'altro, devo dire, grande novità, l'Italia è stata inclusa nella prima fascia di mercati. Quindi non dobbiamo più aspettare il secondo turno? No, oppure non devi andare come succedeva una volta di più. I fanatici andavano in Francia per prendersi l'iPhone che usciva prima là e poi prima dell'Italia. Ma, per vantarsi sicuramente poi una novità, al bar. Esatto. Allora, hanno presentato a Latere una confezione, una sorta di una roba grande come una scatola di caramelle. All'interno di questa scatoletta ci sono due cuffiette indipendenti e senza fili, quindi sono due auricolari che ti infili, uno nell'orecchio destro, uno nell'orecchio sinistro. Sono tecnologicamente molto sofisticate perché hanno dei sensori a bordo, si accorgono loro quando te le infili nelle orecchie e automaticamente si collegano al telefono, quindi fino a quel punto non consumano batteria. Uh-huh. Hanno una batteria che dura 5 ore, loro dichiarano, poi le proveremo e vedremo se è vero. Tu le rimetti nella scatoletta, si ricaricano, perché la scatoletta è una sorta di batteria. Se non l'hai persa nel frattempo. Esattamente. Insomma, poi possono essere usate anche come auricolare. Il problema è che nella scatola dell'iPhone ci sono delle cuffiette col filo, con il connettore Lightning, oppure c'è questo adattatore per usare le cuffiette vecchie, e queste cuffiette senza fili, che si chiamano AirPods, verranno vendute a parte alla modica cifra di 179 euro. Però, e poi, come sempre nel caso dei prodotti Apple, se non sono originali non vanno, no? Magari. Beh, allora, ci sono già delle cuffie con filo compatibili con il nuovo iPhone. Vedremo quando, se usciranno, però è molto probabile che usciranno anche delle cuffiette senza filo compatibili con iPhone. Però diciamo che dobbiamo prendere spunto da questa presentazione un po' per immaginarci il futuro prossimo. Allora, facciamo una cosa, Enrico, visto che sono le 15:46 e siamo già in ritardo di un minuto. Via. Suspense sul futuro, viabilità e poi ancora insieme. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna. Asiago, 8-11 settembre. Vi presenta Il sabato del villaggio. Enrico Pagliarini, un minuto per raccontarmi il futuro secondo te dopo questa presentazione di Apple? Allora, il futuro molto probabilmente sarà wireless, senza fili, per un motivo molto molto semplice. Se tu togli di mezzo il mini jack audio, che è una cosa diffusissima, è uno standard, io ho un Android e ho un iPhone e posso usare le mie cuffiette indipendentemente sull'uno o l'altro telefono. Allora, se tu togli questo e mi obblighi a usare una cuffietta con cavo, ma a quel punto per l'iPhone con un certo tipo di cavo, con l'Android con un altro tipo di cavo, allora a quel punto lo standard diventa il Bluetooth e quindi si risemplifica e si ristandardizza tutto il mercato con la connessione wireless. Però del futuro non c'è certezza, diceva qualcuno, e quindi aspettiamo di capire se poi tutti gli altri produttori andranno dietro ad iPhone. Ho parlato con un produttore abbastanza famoso e mi ha detto: ne stiamo discutendo. Poi dal discutere ad andare sul mercato c'è, vedremo che cosa mare succede. Esattamente. Enrico, ti saluto per questo sabato. C'è un bel messaggio di Mauro da Catania al 349-238-6666 che ci pone una questione per le prossime puntate, poi te lo giro, così Mauro ti risponderà nelle prossime puntate. Enrico Pagliarini, ciao Enrico, al prossimo sabato. Ciao. E abbiamo Abbiamo parlato prima di questi magnifici set che ieri sera sono stati mostrati alla stampa in anteprima e questa sera chiuderanno la mostra del cinema di Venezia. Ne abbiamo parlato con Gabriele Niola all'inizio di questo Sabato del Villaggio, ovviamente potete recuperare tutto in podcast, ma quindi continuiamo a parlare di cinema ma con le uscite in sala, perché riprende il Sabato del Villaggio, per molti riprende anche l'abitudine di andare al cinema, quindi per sapere cosa esce questo fine settimana lo chiediamo subito al nostro super esperto Franco D'Assisti. Ciao Franco, allora cosa succede questo fine settimana al cinema? Ciao Marta, un saluto a tutti. Un weekend di uscite non particolarmente ricco per essere il 10 settembre, solo 5 film nuovi in sala. A far cassetta, ne parleremo fra poco, dovrebbe pensarci Independence Day, però io voglio cominciare da un altro film che si intitola Man in the Dark, che secondo me è veramente il film della settimana. È un thriller che ha qualche venatura horror anche, soprattutto nelle atmosfere che riesce a creare, che ha un plot molto molto semplice. La storia di un gruppo di ragazzi che vivacchiano facendo rapine in una Detroit che ormai è una città fantasma, hanno una dritta, quella di un veterano della guerra del Golfo, che è rimasto cieco appunto per una ferita di guerra, vive da solo in una casa praticamente semi abbandonata e che nasconde in questa casa un malloppo piuttosto consistente, che è il risarcimento che aveva avuto appunto per la sua ferita di guerra. Considerandolo un colpo semplice, i tre sprovveduti vanno e si renderanno conto che non è affatto semplice, perché il Man in the Dark del titolo sa difendersi molto bene pur da non vedente dentro il buio della sua casa, soprattutto se stabilisce delle condizioni uguali alle sue, ovvero fa saltare la luce e siamo tutti al buio e allora lì io gioco in casa e voi invece no. È un thriller interessante perché intanto non c'è niente di soprannaturale, totalmente realistico, ha anche delle venature sociali importanti, una ragazza che fa di tutto per portare a termine questa rapina per poter scappare in California con la sorellina e sottrarla a dei genitori malvagi. Ci sono temi anche sociali, come dicevo, alle spalle, ma soprattutto c'è una regia, quella di Fede Alvarez, molto molto interessante, che gioca molto col genere e che alla fine ci regala un film che davvero è Don't Breathe, come nel titolo originale, non respirare, non ti fa respirare un attimo, ed è sicuramente un risultato importante. Vedo in giro i cartelli di questo Independence Day, seconda puntata, remake, non so nemmeno io cosa sia, ma lo andiamo a vedere. Ma guarda, intanto qui la risposta è semplice, Marta: andare a vederlo se si è aficionados di questa saga. Questo film arriva 20 anni dopo l'Independence Day che avevamo conosciuto, con anche la capacità di spaccare un po' la fantascienza dell'epoca, perché era una fantascienza un po' più cialtrona, se vogliamo, un po' più ridanciana. La mano è sempre quella di Roland Emmerich e quindi il regista è lo stesso. Il cast vede da Liam Hemsworth a Bill Pullman a Charlotte Gainsbourg e Jeff Goldblum, il re di vivo. Poi, se invece nel frattempo, in questi 20 anni, abbiamo visto tutta la fantascienza che è passata, soprattutto in campo di distruzione del pianeta da parte degli alieni, beh, insomma, non è che aggiunga francamente molto di nuovo. Ancora una volta gli alieni ci provano a distruggere le nostre città, noi siamo sempre più piccoli e indifesi, ma alla fine ce la facciamo. E quindi alla fine, come dire, il piccolo gruppo di uomini e donne che salverà il pianeta c'è sempre, come nella migliore tradizione. Devo dire, un film che a livello di saga non dice veramente più niente rispetto all'originale, però chi ha amato quella storia e quelle storie sicuramente può andarlo a vedere. Abbiamo parlato già della mostra del cinema di Venezia, sicuramente tornerai a parlarne tu nella Rosa Purpurea. Esce già qualcosa di questa 73esima mostra questo fine settimana al cinema? Guarda, rimbalzano in sala un paio di film che sono passati da quelle parti. Io voglio soffermarmi su Tommaso, una nuova opera da regista di Kirossi Stewart. Kirossi Stewart, con anche Libero va bene, 10 anni fa aveva esordito Dietro la macchina da presa, è uno degli attori sicuramente della sua generazione più sensibili, più profondi del nostro panorama. Mette insieme una storia su un attore un po', come dire, scapestrato, nel senso bello, romantico, ma molto molto indeciso e soprattutto in estrema difficoltà con il pianeta donna. Questo è un po' il ruolo che si ritaglia Kirossi Stewart a fianco a Cristiana Capotondi e a Jasmine Trinca nel film. Il risultato è abbastanza altalenante, cioè c'è da una parte sicuramente la ricerca e anche alcuni momenti di un film che sia un po' più profondo, ma in certi momenti in maniera un po' troppo aulica, troppo accademica, e questo nuoce un pochino alla fluidità di questa pellicola, di questo Tommaso. Comunque di Venezia parleremo nel festival, nella nostra Rosa Purpurea, perché ovviamente avremo proprio l'ultimo Toto Leone, perché fra poche ore si decide tutto a Venezia, e il resto lo sentirete ovviamente qui su Radio 24 nei giornali radio. Grazie Franco, dunque appuntamento con te alla Rosa Purpurea dopo il giornale radio delle 18, al prossimo sabato del villaggio. Ciao Franco. Un saluto a te Marta, a tutti gli ascoltatori, alla prossima. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un'autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in digital radio. Io vorrei un'Europa in cui le persone non hanno paura di perdere la propria nazionalità o le ricchezze del loro paese. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Il sabato del villaggio. Ed eccoci ancora insieme con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, che è tornato in diretta questo sabato, il nostro primo giorno di scuola. 349-238-6666 il numero per i vostri sms, ma anche messaggi WhatsApp. Poi c'è il mio account di Twitter, che è @MartaCagnola, insomma possiamo seguirci in qualsiasi momento. Abbiamo anche un hashtag, cancelletto ISDV, come le iniziali di il sabato del villaggio. I temi della seconda ora, beh, stiamo un po' esplorando quali saranno le nuove tendenze, le cose da sapere per il prossimo anno. Lo sapete che non vi tradiamo mai, che quando vi segnaliamo qualcosa è quella veramente di moda, veramente del momento. Allora, i libri con la nostra Alessandra Tedesco. Peraltro torneremo anche a Venezia, perché poi è la sera del Campiello. Le grandi anticipazioni della prossima stagione anche sulla musica e tutto il meglio delle serie TV. E quindi le cose già da vedere o da vedere nelle prossime settimane. Avremo anche un grande protagonista della TV che farà capolino al sabato del villaggio per presentarci una grande novità. Tra poco sapremo chi è. Ma prima, beh, tutte le novità che riguardano la radio, una novità che riguarda in particolare Radio 24, e scopriamo qual è. Radio Nowhere, cantava Bruce Springsteen, e si chiedeva se c'era qualcuno là fuori che trasmetteva. No, questa è Radio 24, ci siamo, il sabato pomeriggio in diretta col sabato del villaggio è tornato. Però, non so, vi sarà capitato spesso ultimamente di sentire uno spot che parla di un master che riguarda Radio 24. Allora, siccome qualcuno mi ha chiesto qualcosa in più, allora abbiamo pensato di parlarne proprio nel sabato del villaggio, visto che vi diamo anche un sacco di indicazioni pratiche. Il nome del master è il Master in Radio e New Media Management and Content, spero di averlo detto giusto, e ne parliamo con, che bello poterla presentare anche con tutta una descrizione, adesso me la leggo perché insomma. Allora, il direttore scientifico tecnico del Master, ma anche caporedattore centrale, responsabile programmi e palinsesto di Radio 24, non la sentite spesso in diretta e al microfono a Radio 24, ma noi ce l'abbiamo. Buongiorno Alessandra Scaglioni. Ciao Alessandra. Buongiorno Marta, che presentazione lunghissima. Hai visto? Lunghissima. Ma basta che hai due qualcosa, righe, troppe cose, troppi nomi, non va bene, troppo hai lungo. Due righe di definizione. Ma che biglietto da visita hai? I tuoi li hanno fatti di misura diversa rispetto ai nostri. No, per ma non ce le ho messe tutte queste cose qua, sono troppe, non va bene. Allora, Alessandra. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ah, che strano sentire Alessandra in diretta, che non così non parla spesso al microfono, che peccato. Allora, vedi, scusa, ma sì. Questo è l'esempio di quante professioni ci sono nella radio che stanno dietro le quinte. Ma vedi, ma ha proprio la risposta pronta. Allora, partenza il 28 novembre, però meglio prepararsi subito perché bisogna informarsi subito. Cosa succede? L'hai già detto, tante professioni e quindi... Sì, tante professioni, ci sono quelle davvero che si vedono e si sentono di più, i conduttori, quelli che vanno in onda come te, come tutti i conduttori nostri, come quelli di RDS che è partner di questo master, e ci sono anche tante professioni appunto che non si vedono, che sono quelle di organizzazione, di gestione, ma che sono gli autori dei programmi, che è un mestiere bellissimo, interessantissimo, gli assistenti ai programmi, c'è tutto il mondo del marketing editoriale, il mondo pubblicitario, della programmazione, quindi insomma ci sono parecchi mestieri che stanno dietro intorno alla radio. E è un po' di questo che noi andiamo a parlare e cerchiamo di insegnargli in maniera molto, molto pratica, molto concreta, sia con delle lezioni frontali ma anche con tanti laboratori, tanta aula, tante prove. Quindi laureati, perché si tratta di un master? Laureati primo o secondo livello. Mm-hmm, mm-hmm. Ci sono delle borse di studio ancora fino al 15 di questo mese, c'è possibilità di partecipare per avere una borsa di studio. Quindi ci sono ancora 5 giorni, informandosi dove? Anche perché così tutti possono prendere nota. Guarda, la cosa più interessante credo sia guardare sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore, della Business School, perché questo è un master chiaramente organizzato dalla Business School del Sole 24 Ore. E lì c'è tutto, ci sono tutti i dati, ci sono tutti gli elementi, c'è la durata che poi è 5 mesi di aula e 4 mesi di stage e c'è la possibilità chiaramente sia di iscriversi sia che di provare ad accedere ad avere una borsa di studio. Beh, questo è molto interessante. Ti chiedo un'ultima cosa Alessandra, noi facciamo sì. La cosiddetta radio tradizionale, cioè quella che va in FM o in DAB, ma che insomma... Però si parlerà anche di web, si parlerà anche di nuovi modi di fare radio, questo è molto interessante. Ma guarda, questo è un tema totalmente integrato, perché oggi la radio si fa in maniera assolutamente integrata con tutti i nuovi media, ma sempre di più così, cioè noi siamo nati con le radio analogiche, diciamo nel periodo delle radio libere, chi inizia a fare la radio adesso e saranno i nuovi professionisti di questo settore, sono nati col digitale e sapranno sicuramente meglio di noi, o sicuramente comunque meglio di me, come questo mezzo è sempre più digitale. Quindi noi parleremo sia dal punto di vista del prodotto, perché un prodotto radiofonico oggi vive e vivrà sempre più attraverso la radio, web, i social, vivrà davvero come contenuto, non semplicemente come visibilità, ma come rimbalzo e accrescimento di contenuti, e anche dal punto di vista dei canali, perché quelli che sono i prodotti audio sempre di più, e sta già succedendo, non vanno solo in radio, ma vivono sui canali alternativi, da quello più semplice delle web radio a tutto il mondo del podcast. Immagino che voi lo sappiate, ci sono realtà, per esempio negli Stati Uniti, dove prodotti solo in podcast hanno spopolato, diventando prodotti di punta, per cui la produzione audio vivrà sempre di più in canali alternativi. E quindi, questo noi cerchiamo di renderlo concreto da subito. Straordinario. Mi piace che tu abbia ricordato tra 5 giorni, cioè nel giro di 5 giorni, cercare di informarsi per le borse di studio, perché questo è molto importante. Il sito l'abbiamo dato e quindi grazie ad Alessandra Scaglioni. Dai, fammelo grazie, ripetere. Grazie a te. Lo voglio Buona ridire. Lo voglio ridire. Direttore scientifico del Master e caporedattore centrale responsabile programmi e palinsesto di Radio 24. Ciao Alessandra. Ciao a tutti. Grazie ad Alessandra Scaglioni che è veglia su di noi e su tutte le nostre trasmissioni, fa anche rima. Noi adesso passiamo ad un'altra Alessandra, perché Radio 24 ne abbiamo più di una e io la vorrei introdurre così. Ah. Ma quanto mi diverte ogni volta che parlo di Venezia tirare fuori il rondò veneziano, così con questo sapore un po' vintage. Sì, perché siamo stati a Venezia per la mostra, ma eravamo al Lido. Adesso invece mi sa che andiamo proprio a Venezia, Venezia, perché si trova lì la nostra Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra! Ciao Marta, come sempre io e te ci diamo il cambio in questi primi giorni di settembre. Tu con la mostra del cinema al Lido e io col premio Campiello invece dalle parti del teatro La Fenice, sempre a Venezia, naturalmente. Sì, perché in realtà si concludono quasi negli stessi momenti. Io rientro un po' prima per fare la trasmissione, ma questa sera sarò davanti alla TV alle 19 a vedere la premiazione, ovviamente, della mostra del cinema di Venezia. Invece Campiello, raccontaci un po'. Guarda, stasera ci sarà proprio la serata finale, lo sappiamo, sono stati già scelti 5 libri finalisti e stasera si avrà il risultato del voto dei 300 lettori della giuria popolare. Sottolineiamo sempre che si tratta di una giuria di lettori comuni che cambia ogni anno, quindi è uno dei premi più imprevedibili. Infatti quando mi dicono ma chi è che vincerà il Campiello, noi possiamo fare semplicemente delle previsioni in base a quello che è il romanzo che potrebbe incontrare il gusto trasversale dei lettori comuni, perché comunque sono 300 persone di diverse età, diverse estrazioni sociali, diverse professioni, quindi deve essere un libro veramente trasversale. I finalisti, dicevamo, sono 5: Alessandro Bertante, Gli ultimi ragazzi del secolo, Luca Doninelli, Le cose semplici, Elisabetta Rasì, Le regole del fuoco, Andrea Tarabia, Il giardino delle mosche, Simona Vinci, La prima verità. Tu vuoi sapere chi vincerà? E per forza. Io non lo posso dire, no. Non posso fare una mia previsione. Secondo me uno dei romanzi che, perché veramente nessuno lo sa, uno dei romanzi che è più trasversale, quindi secondo me potrebbe incontrare meglio il gusto di un pubblico più vasto, è probabilmente Le regole del fuoco di Elisabetta Rasì. Mi sono sbilanciata, poi vedremo stasera. Però diciamo che a differenza di altri premi, come hai detto, è una sensazione, non c'è quella cosa scientifica del dire vincerà questo. È impossibile, ricordo sempre l'anno in cui fu candidato Fruttero, o l'anno in cui fu candidato 2 anni fa Mauro Corona, scrittore famosissimo. Fruttero arrivò ultimo, Mauro Corona arrivò terzo e vinse un ragazzo assolutamente sconosciuto. Fosse per te, chi premieresti tra questi? Ecco, su questo mi metti un pochino più in imbarazzo, però ti dico che sicuramente è una cinquina abbastanza equilibrata e sono tutti e cinque, per un verso o per l'altro, dei libri molto belli che hanno un filo comune. Sai qual è, Marta? Quale? Loro si sono messi a ridere quando gliel'ho detto una volta pubblicamente: l'orrore. Cioè il fatto che tutti raccontano, non che siano libri orrendi, ma che tutti raccontano in qualche modo l'orrore della malattia mentale, della droga negli anni Ottanta, della prima guerra mondiale, del serial killer dell'Unione Sovietica. Insomma, sono tutti libri belli tosti. Allora, Alessandra, facciamo una cosa, una breve pausa per la viabilità, perché io ho anticipato che tu ci avresti un po' dato le tendenze dei grandi scrittori e gli scrittori da leggere, quelli che dobbiamo attendere per la prossima stagione. Una brevissima pausa, poi siamo ancora insieme con Alessandra Tedesco. Il sabato del villaggio. Stiamo parlando delle grandi tendenze della prossima stagione in tanti campi, come facciamo sempre nel Sabato del Villaggio. Abbiamo parlato di tecnologie, abbiamo parlato di cibo, di ristoranti, prima con Davide Paolini e con Enrico Pagliarini, poi perché i nostri esperti sanno darci quali saranno le grandi tendenze. Per quanto riguarda i libri, sicuramente si parlerà tantissimo degli autori di cui si parla di più, degli autori più attesi, quindi io so già che ci sono dei libri che gli appassionati stanno aspettando tantissimo. Quindi Alessandra Tedesco ancora in diretta con noi da Venezia, perché appunto questa sera Campiello. A che ora si saprà, Alessandra? Guarda, intorno alle 22:30 si saprà il risultato finale, quindi noi lo daremo nel GR delle 23. Alessandra, allora, grandi scrittori molto attesi, cominciamo già a prendere nota di chi arriva nella prossima stagione. Il più atteso in assoluto è l'ottavo libro di Harry Potter, Harry Potter. Lo scrive come sempre J.K. Rowling, pubblicato in Italia da Salani. Precisiamo, non si tratta dell'ottavo romanzo, è l'ottavo libro, ma è un testo teatrale che è stato già messo in scena in Gran Bretagna l'estate scorsa. Si intitola Harry Potter e la maledizione dell'erede. In questo caso Harry Potter si vede la sua vita 19 anni dopo, è sposato, è impiegato al Ministero della Magia, ha 3 figli e ha il figlio minore Albus, che ha qualche problema appunto con l'eredità del padre, non vorrebbe diventare come il padre. In Italia uscirà a mezzanotte del 23 settembre, e preciso mezzanotte perché alcune librerie saranno proprio aperte per permettere la vendita a mezzanotte e un minuto dell'attesissimo Harry Potter. Come era già successo, insomma, la gente che si campa fuori dal pomeriggio precedente. Sì, ragazzi, assolutamente, insomma, è vero che è già uscito in Gran Bretagna, quindi chi sa l'inglese magari l'ha già letto, però insomma è sicuramente il libro più atteso. Un libro anche attesissimo la prossima settimana è quello di Clara Sanchez, scrittrice spagnola, Lo stupore di una notte di luce, pubblicato da Garzanti. È molto atteso, Marta, perché è il seguito del bestseller Il profumo delle foglie di limone, che solo in Italia aveva venduto circa 1 milione di copie. E a proposito di seguiti, vi segnalo anche che è molto atteso, anzi sta piacendo perché è appena uscito, il seguito diciamo la terza parte di una trilogia, quella di Jay McInerney, scrittore americano che aveva scritto Si spengono le luci, Good Life, era diventato famoso col suo primo romanzo Le mille luci di New York. Ora in Italia è stato pubblicato La luce dei giorni da Bompiani, tra l'altro in questi giorni Jay McInerney in Italia, quindi se ne sta parlando tantissimo. L'ha incontrato perché ho visto tante foto di tanti colleghi che è in questi Mantova, giorni è al Festival di Mantova, e quindi no, non ci siamo sfiorati, no. È passato anche da Milano, purtroppo. Ma purtroppo che disdetta, questa perso, volta Marta. No. Accidenti. Che poi a volte ci vorrebbe proprio un po' di ubiquità, niente. No, però siccome ci stavi parlando di Clara Sanchez, so che piace molto alle signore Clara Sanchez. Sì, Clara Sanchez è sicuramente la scrittrice, la definisco sempre così, la spagnola più amata dalle italiane, questo è sicuro. Ovviamente non dimentichiamo anche gli italiani molto amati dagli italiani, perché sta ritornando in libreria Andrea Camilleri. Ogni anno a maggio pubblica il suo Albano, ma adesso esce per Sellerio La cappella di famiglia e altre storie di Vigata. È una raccolta di racconti, di storie, diciamo, ambientate fra l'Ottocento e il Novecento. Ma sai che Camilleri ha scritto anche una favola per bambini che è stata pubblicata da Mondadori, viene pubblicata in questi giorni, e si intitola Topi OP. È una favola di un pulcino dedicata, diciamo, a bambini fra i 5 e gli 8 anni. Aspetta, raccontami un po', una favola per bambini, raccontami un sì. po'. È una favola per bambini. Molti scrittori, diciamo, si dilettano ultimamente a scrivere favole per bambini, mm-hmm. che però possono piacere ai grandi, sulla scia per esempio di Sepúlveda, no? Il gatto e la gabbianella e il gatto, eccetera. In realtà Camilleri ha voluto fare proprio un libro esplicitamente solo per bambini, nella fascia, io dicevo, fra i 5 e gli 8 anni, diciamo a cavallo fra la prescolare, la prima, seconda e terza elementare. È una storia molto tenera, ambientata in Sicilia, di un bambino a cui la nonna affida un pulcino, e questo pulcino Pio Pi lo segue sempre per diciamo in tutte le sue attività. Poi succedono cose, insomma, che sicuramente i bambini piaceranno. Che poi, detto tra noi, è più difficile fare un libro che piaccia ai bambini che un libro che piaccia agli adulti. Ci sono delle pernacchiette del telefono, non sono io, lo dico agli ascoltatori, sentite anche voi la pernacchietta. Dicevo, Alessandra, è più difficile talvolta fare spesso fare i libri per bambini che fare libri per adulti, È diverso, Marta, perché è proprio un approccio diverso. Con i bambini non puoi scrivere dall'alto in basso, come se li guardassi appunto dall'alto della tua età in basso, ma devi, come dire, spiegarti, diventare piccolino, devi essere alla loro altezza, capire cosa veramente interessa loro e cosa li emoziona. Fantastico. Allora, Alessandra, io mi sono presa nota di tutti i titoli, anche perché sono gli argomenti, secondo me ho un po' la sensazione che saranno sempre ognuno di loro sarà il libro della settimana nei prossimi sabati mano a mano che escono, chissà perché. Ho questa sensazione. Invece l'appuntamento con te poi sarà nei giornali radio con le anticipazioni del campiello, e poi alle 23, giornale radio alle 23, ci darai il vincitore di questo campiello misterioso, sul quale non si possono avere indiscrezioni perché abbiamo capito non ci sono, Marta. Posso segnalarti un ultimo grande sì, nome certo. da segnare nel taccuino? Novembre, l'uscita di Roberto Saviano con il romanzo La paranza dei bambini, parla di un gruppo di ragazzini della Camorra, insomma, che devono uccidere i rivali, e lo pubblica con Feltrinelli. Questo è un libro veramente molto molto atteso sia dal pubblico ma anche dai critici, perché come sai spesso si vogliono fare le pulci agli scrittori che vendono tanto. Sì, ma nel senso che i critici lo aspettano al varco con... Certo, è così quando uno scrittore vende tanto è così, lo aspettano al varco per criticarlo, mazzolarlo magari. Okay, non lo so. Ho capito. Io non l'ho ancora letto, quindi non posso pronunciarmi. No, perché mi è piaciuta l'immagine, è molto atteso dal pubblico e anche dai critici, così, vabbè. Certo, posso capirlo, posso capirlo. Allora, grazie ad Alessandra Tedesco. L'appuntamento è col Cacciatore di Libri, che torna anche in podcast, e sempre con te al Sabato del Villaggio. Sono molto contenta di aver passato anche con te questo primo giorno di scuola di questo sabato. Goditi un po' di Venezia anche per me. Un abbraccio, Alessandra. Ciao Marta, ciao a tutti. E adesso, tra le grandi tendenze della prossima stagione, andiamo a scoprire quelli che riguardano la musica. Questo pezzo, questo Sting bello energico, cos'è? Una delle nuove tendenze della prossima stagione? Lo chiediamo subito al critico musicale del giornale, nonché caro carissimo amico del Sabato del Villaggio, Paolo Giordano. Ciao Paolo! Eccomi, ciao Marta, come stai? Io, primo giorno di scuola, sì, primo giorno di scuola, tornata ieri sera dal Lido, ancora con un po' di puzzetta di cinema addosso. Sai che dopo tanti giorni di film hai ancora la sensazione di dover vedere quei 4-5 film al giorno, e invece no. Ho voglia anche di tornare a parlare di musica e ascoltare musica, e quindi... ho anche voglia di capire che cosa succederà quest'autunno, quali saranno le grandi cose da tenere d'occhio e da aspettare nelle prossime settimane, perché anche i nostri ascoltatori sanno che al Sabato del Villaggio noi già diciamo tutto quello che accadrà e sul quale bisogna tenere gli occhi aperti. Abbiamo appena sentito Alessandra Tedesco che ci ha dato i titoli dei libri più attesi nelle prossime settimane, e a te Paolo invece chiedo la musica che cosa ci riserva in questo periodo? Ma la musica senz'altro in questa stagione è alle prese con le grandi scommesse, nel senso che ci sono artisti come Sting che tornano appunto con un singolo, con un disco tra l'altro per inciso dedicato a David Bowie, con un singolo che sono rock nel senso di Sting, nel senso anche di Police, quindi è una sorta di scommessa, perché Sting negli ultimi anni si era un po' allontanato dalla formula canzone tipicamente pop ed era un po' approdato tra quelle ricerche un pochettino, diciamo, filologiche della musica legate alla musica medievale, alla musica rinascimentale, eccetera. Da questo singolo sembra un po' tornato davvero quello di Police. Sì, sembra tornato alle origini, però posso dire una cosa tra parentesi, nonostante io ami in modo, diciamo, conclamato, evidente e referenziato Sting, la voce è sua, lui fa lo Sting come se non avesse 60 anni e ne avesse ancora 30, e io ho fatto fatica quando ho ascoltato per la prima volta il pezzo, ho fatto fatica a riconoscere Sting, ho pensato che fosse uno che cantava con la voce di Sting, ecco, cioè mi è sembrato abbastanza inconsueto per lui. No, il pezzo è un pezzo che funziona, un pezzo, come hai detto tu, rock, un pezzo che ha un allure che ci riporta indietro nel tempo e ci fa riconoscere, perlomeno a tutti noi che abbiamo vissuto e siamo cresciuti con Sting e con i Police, riconoscere quel tipo di suono. voglio capire se tu dici questa cosa della voce perché, così detto tra noi, tanto non ci sta ascoltando nessuno, sì, pensi che l'abbia un po' effettata per sembrare anche quello dei tempi dei Police? Ma non ho idea, io credo che... Cioè che stia un po' scimmiottando se stesso? Ma cioè, ascoltando il singolo mi è venuta questa sensazione. Sono abituato a non dare giudizi sempre transan, cioè voglio ascoltare il disco, voglio capire anche le scelte che lui ha fatto per vedere se effettivamente si tratta di un'operazione riempitivo, chiamiamola così tra virgolette, cioè di un disco che lui deve fare perché comunque si tratta di un'icona del pop rock mondiale che manca dalle classifiche da un bel po' e quindi deve in qualche modo ritornare, oppure se è effettivamente un qualcosa di sentito e di, tra virgolette, sempre vero. Io ci spero tanto, 11 novembre arriva e già sarà la dannazione dire il titolo dell'album, che diremo all'italiana 57esima e nona, perché in inglese ci arrotoleremmo la lingua. Mi pare di aver capito che è un indirizzo di New York, sarà il titolo dell'album. Posso dire una cosa che non so come dire, tra parentesi. Allora, oggi è il 10 settembre. 15 anni fa io a casa sua a Figline Valdarno, sì, dove lui faceva le prove di un suo disco dal vivo che avrebbe registrato l'11 settembre. Accidenti, hai capito? E quindi io sono uscito da casa praticamente di Sting, sono arrivato in redazione e la vita è cambiata. E ho visto uno che davanti a un televisore aveva la faccia pallida e vedeva un grattacielo crollare. Ecco, ecco come la vita possa cambiare da un momento da casa di Sting, esatto, dove hai vissuto la magia. Esatto. Accidenti. Allora, facciamo una cosa, Paolo, non voglio mica parlare solo di Sting, no, perché esatto, ci sono tante altre cose che voglio sapere. Una brevissima pausa, poi torniamo insieme con te per sapere tutti i dischi da aspettare, magari anche qualche live, chissà, da aspettare, la musica da aspettare per la prossima stagione, quella che farà tendenza tra pochissimo. Oscar, mi aiuti? Eccomi! No, stai attento, prendila di lì! Ma cosa? È scivolosa! Guarda che esplode questa notizia, guarda che è una bomba! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. Notizie esplosive. E schiene dritte. Attenti a noi due, ogni giorno dalle 8:20 su Radio 24. Con Alessandro Milan e Oscar Giannino. L'informazione che non ha paura. Semmai ne fa. Il sabato del villaggio. Allora, prima di tornare con Paolo Giordano e tutte le anticipazioni della grande musica che ci così apre alla prossima stagione, vorrei solo segnalare un evento domani sera a Sanremo, a Pian di Nave. Domani sarebbe stato il compleanno di un personaggio fondamentale per la storia della musica italiana, del cantautorato italiano, in particolare del cantautorato genovese. Sarebbe stato il compleanno di Pepi Morgia. Ci sarà una serata che sicuramente sarà bellissima, mi piacerebbe tantissimo, purtroppo non potrò essere lì. Si intitola Oltre le luci, ci saranno Baccini, Baglioni, Cammariere, Casale, Cecilia Sciagli, Dori Ghezzi, Cristiano De André, Vittorio De Scalzi, Alberto Fortis, Filippo Graziani, Mauro Pagani, insomma Ron. Non so se avete intuito la portata della serata. Domani sera a Sanremo, una serata che sarà diretta dal figlio di Pepi Morgia, che è Emiliano Morgia, che è anche un carissimo amico di Radio 24, e quindi sono sicura che sarà una serata speciale e io volevo segnalarla. Ma torniamo con il critico musicale del giornale, Paolo Giordano. Ci sei ancora, Paolo? Ecco, mi sono qua e ti faccio i complimenti perché Pepi è stato una leggenda, una colonna della musica italiana, anche della musica italiana ascoltata in Italia ma proveniente dall'estero, sì, perché il primo tour dei Genesis in Italia, Le Luci, la produzione on stage l'ha fatta Pepi Morgia. Quelle figure che magari non fanno titolo, non sono note al grande pubblico, ma lui era veramente l'anima non solo di tanti eventi, di tanta musica di Fabrizio De André, ma insomma di tanta musica italiana. Un grandissimo senza sé e senza ma. E quindi una serata importante con tanti artisti di quel calibro che fa capire che il livello, la statura, ecco, che aveva lui. Allora, Paolo, abbiamo parlato di Sting. Sting arriva l'11 novembre. Altri grandi nomi per la prossima stagione? Ma ci sono due italiani che tutti aspettano. Qualcuno ha già fatto intuire che cosa potrebbe essere. Tiziano Ferro. Poi c'è Giorgia, anche. E diciamo che loro riempiranno un po' le classifiche e le attese di tutto il pubblico. Poi ci saranno un po' di singoli di Vasco. Spiegami esatto. Un po' cosa significa un po' di singoli. No, lui sai che li annuncia così, e quindi io mi riferisco a quello che riportano le cronache, perché di più non so. Ci sarà comunque Vasco, che è in attesa, anzi sta iniziando, è sul trampolino per lanciare il suo mega evento del prossimo anno, che sarà appunto a Modena, un mega concerto con tantissime persone, che Vasco farà un evento unico, che ha annunciato presentando le date di quest'estate negli stadi, e quindi siamo tutti in attesa di capire che cosa succederà in quel giorno lì, su quel palco lì. Mentre parlando di Vasco, mi viene subito da collegarmi a Ligabue. La prossima settimana ci sarà tra due settimane ci sarà il grande concerto di Monza, anche lui, quindi sulla rampa di lancio. Esce con un disco di cui eseguirà alcuni brani proprio nelle due date che fa alla Villa Reale di Monza, e il disco si intitola, se non sbaglio, Viva l'Italia. Made in Italy, sai che non me lo ricordo. No, Made in Italy, hai ragione. Scusa, ho sbagliato, perché mi sono confuso con un altro che aveva fatto Viva l'Italia. Sì, Made in Italy. E il singolo si chiama G come giungla, ed è un singolo che ha un po', come direbbe qualcuno, ha avuto un effetto divisivo, e cioè che ha portato i fan a esaltarlo e i detrattori a denigrarlo particolarmente. Io sono tra i fan, e quindi credo che G come giungla sia un ottimo brano di Ligabue. Senti, ma invece hai citato Tiziano Ferro e Giorgia, sì. Di loro non si sa nulla, però non nel si senso sa un mistero nulla, fitto. Non ciò che vagamente circola, non ovviamente accreditato, non è sui social e sul web in generale. Quindi grandissima attesa per entrambi. E ci saranno ottime, secondo me ottimi risponsi, perché Giorgia ci manca da un po' di tempo, e Tiziano, insomma, è uno che non delude mai. Sì. No, poi Giorgia negli ultimi anni ha sempre fatto poi dei singoli che sono andati benissimo, e Tiziano, che dobbiamo dire, Tiziano Ferro. Qualcosa di nuovo invece che piace a te, Paolo? Intendi Metallica? Sì, perché è vero, perché io non so se voi avete presente Paolo Giordano, che spesso va anche in TV, quindi è un personaggio molto famoso. Lui ha quest'aria così mansueta, chic, colorata, sorridente, un gentiluomo, però è molto metal, è estremamente metal. Io metal o lì. No? Io sono nato lì, il primo giornale per il quale ho scritto nazionale è stato Metal Shock, e mi ricordo, adesso visto che parliamo di Metallica e tu che sei perfida, me lo fai ricordare, mi ricordo nell'83, quando sono entrato nel negozio di dischi della mia città, a chiedere se era finalmente arrivato il primo disco di quella band di cui avevo avuto qualche mese prima i demo tape, che si chiamava Metallica. Il disco era Kill Em All, e lo comprai, e oggettivamente quel disco ha cambiato moltissimo della storia del rock estremo, insomma del rock duo, e i Metallica sono ancora oggi, 33 anni dopo, tra i gruppi più seguiti, con la fanbase più fedele del mondo, no? È così che nascono i grandi gruppi e anche i grandi critici musicali. Ma Metallica a parte, caro Paolo, sì. che cosa attendi tu con passione? Ma io sono abbastanza aperto a ciò che verrà annunciato, ti dico la verità, cerco di non, dal punto di vista proprio mio, proprio della critica, di non avere particolari attese, nel senso voglio prendere qualsiasi disco nuovo, magari anche di grandi gruppi, come se fosse il primo, senza sapere di che cosa sto parlando e a che cosa vado incontro. E quindi sono abbastanza, come dire, vivo un po' sospeso, ecco, perché questa stagione, scusa, è la stagione decisiva per quest'anno, nel senso che non solo il periodo è il periodo fondamentale, ma la situazione musicale, anche della discografia in generale, si sta riprendendo. E quindi se arrivano delle ottime vendite, ad esempio Green Day potrebbe essere il successo oppure il flop di questa stagione, con anche i concerti che faranno. Da tutto ciò potrebbe venire fuori una rinascita della musica in senso generale oppure di nuovo una fase di stallo. E quindi io mi sento come se avessi 17 anni. E tu? Una cosa che mi appassionerà molto della prossima stagione sarà questa commissione musica TV, sempre più forte. Ad esempio, Mina Celentano con questo album misterioso, Serata misteriosa per lanciarlo. Esatto, un altro progetto di cui non sappiamo assolutamente nulla. Non sappiamo nulla. Che arriverà alla fine dell'autunno, in qualche modo, su Rai 1, e del quale ovviamente non sa nulla, al punto che qualcuno addirittura vagamente, sottilmente, anche sotterraneamente annuncia la possibilità di un'apparizione in qualche modo di Mina. Sicuramente ci sarà Celentano. Il disco che faranno sarà uno dei blockbuster di questa stagione, evidentemente, visto sì, che poi secondo, se esce davvero i primi di dicembre sarà il regalo di Natale. Sarà il regalo di Natale perfetto per almeno 3 generazioni. Esatto. Quindi insomma, capisci a me, come dicono. E quindi così, ma tutto ciò arriverà dopo una stagione, appunto, settembre, ottobre, novembre, che Canale 5 dedica ai grandi eventi dal vivo e che la televisione, anche generalista, anche di Rai 1, si riserverà di dedicare molto spesso alla musica. E quindi è proprio un autunno di rinascita, un autunno di germoglio musicale. Il fatto che, come tu hai detto giustamente, ci sia un legame stretto tra la TV generalista e la musica pop è un buon segno, secondo me. Non so cosa ne pensi tu. Sì, e non sì, so sì, è un buon segno. Ho sempre detestato quando dicevano che la musica in TV non faceva ascolti. Mi piacciono molto musica e TV insieme. Ma io non ci vedo niente di male, anche perché i Beatles sono nati in TV nel 65. Voglio dire, non è che siano due cose incompatibili, la musica buona, di qualità, e la TV. Non credo che ci sia nessuno che possa negarlo, ecco. A proposito di Beatles, dalla prossima settimana ci sarà nei cinema italiani il 8 Days a Week diretto da Ron Howard. Qui veramente passiamo da una cosa all'altra. L'ultima cosa che voglio chiederti, Paolo, ma è vero che Laura Pausini fa un disco di Natale? Un disco di Natale, sì. L'ha annunciato lei di sua iniziativa. Tipo Mariah Carey. Attraverso i social, sì. Si intitola Laura for Christmas, se non sbaglio. Io credo che sia un po' la morte sua. In che senso? Specifica bene? No, bene, Paolo. Non equivocarti. Perché sennò i fan ce li troviamo qua sotto. No, assolutamente no. Anzi, la morte sua si dice di una cosa positiva. Ecco. Io credo che la Pausini, dopo un disco, dopo un tour pazzesco mondiale che sta facendo, dopo le apparizioni nei talent show in Sud America, eccetera, è il momento giusto di poter fare un disco di canzoni di Natale, come peraltro hanno fatto tutti i più grandi della storia. Quindi non c'è niente di male, non c'è niente di spregevole nel fare un disco di Natale, perché lei ha una voce e ha un personaggio che con le canzoni di Natale io credo vada benissimo. Io non posso dire niente di male perché ho già visto Daniele Bellasio che si aggira per la regia e fa ciao con la manina, essendo lui un grande fan di Laura Pausini. Ecco, allora siamo in due. Non posso dire niente che non sia che attendo molto anch'io. Sta dicendo qualcosa, ma come donna, ha detto come donna. Come donna. Come donna. Allora io adesso darei bene. Subito la pausa. Ti sì. devo perché devo sì, metabolizzare. No, regole i conti. Esatto. Devo regole metabolizzare conti. Questa informazione. Benissimo. Come sono felice di aver avuto al Sabato del Villaggio un altro dei nostri grandi, grandissimi amici, Paolo Giordano. Un regole abbraccio, conti. Paolo. E buon Natale anche a te. Esatto. Un abbraccio, Paolo. Alla prossima, grazie. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna. Asiago, 8-11 settembre. Vi presenta Il sabato del villaggio. Ma che bello è stato poter parlare con Paolo Giordano di tutte le novità della prossima stagione musicale. Abbiamo parlato di tante cose in questo sabato del villaggio, di tecnologia, di cibi, di musica. Potremmo forse non parlare di serie TV, ma allora andiamo a sentire qualcosa che sta facendo davvero furore. Oh mama, I'm in fear for my life from the long arm of the law. Pablo Escobar. Pablo Escobar è evaso dalla prigione. Sì, fu la più grande cantonata mai presa dalle forze dell'ordine. E ora volevamo vendetta. Un'alleanza sta prendendo forma, con l'obiettivo di eliminare Escobar. Non era una caccia all'uomo, questa era un'invasione. Ma c'era un problema. Pablo non è mai così pericoloso come quando stai per prenderlo. Ne stanno parlando tutti. Pablo Escobar è il grande narcotrafficante, protagonista, forse suo malgrado, di Narcos 1, è tornato in Narcos 2. Tutti che stanno parlando di questa Narcos 2, io non l'ho ancora vista, quindi voglio sapere com'è e voglio sapere cosa c'è da vedere adesso e cosa ci sarà da vedere in questa stagione per quanto riguarda le serie TV, argomento immancabile al Sabato del Villaggio perché gli appassionati sono tanti, tantissimi, con un altro dei nostri amici del Sabato del Villaggio, direttamente da TV Sorrese Canzoni, Francesco Chignola. Ciao Francesco. Ciao. Pensavo dicessi direttamente Pablo Escobar. Ma te l'immagini? Ma no, anche perché la stessa Netflix ha detto non è uno spoiler, alla fine muore, perché esatto. storia vera, è storia vera. Sì, fammi dire vera. Chiocciola Checkots per il tuo account di Twitter. Com'è questo Narcos 2? Allora, innanzitutto, la premessa è che Narcos è una serie veramente straordinaria per il modo in cui riesce a raccontare dei fatti reali unendo materiali documentari, storia vera, finzione. Pensa che ci sono delle volte in cui proprio si vede magari il personaggio interpretato da Wagner Moura, il personaggio di Pablo Escobar, però si vedono poi dei filmati televisivi reali in cui si vede la vera faccia di Pablo Escobar, tanto sono molto somiglianti, e quindi questo intreccio tra realtà e finzione è veramente molto riuscito. Devo dire che forse io la seconda stagione non l'ho ancora finita, ma tanto mi hanno già raccontato il finale, quindi come se l'avessi vista. Esatto. E la cosa particolare che la distingue dalla prima è che la prima aveva un arco di tempo molto più ampio, raccontava proprio tutta l'origine del mito di Pablo Escobar, quindi si svolgeva in anni, mentre la seconda diciamo ha uno spettro d'azione un pochino più breve e forse meno epica, ok? Però comunque si stringe il cerchio diciamo intorno a questo narcotrafficante e è comunque una serie imperdibile, ricca di emozioni, che consiglio di vedere. Forse non è all'altezza della prima, però va detto che adesso hanno, dopo aver messo online diciamo questa seconda stagione, hanno già annunciato che faranno una terza e anche una quarta, quindi diciamo che non muore ancora la fine di questa seconda stagione. Facciamo una cosa, Francesco, siccome c'è la linea leggermente disturbata, ci sono ancora le pernacchiette di qui sopra, ti richiamiamo, io continuo a parlare con grande classe senza fermarmi mai, ce lo riabbiamo. Francesco, ci sei di nuovo mentre io così riempivo il tempo, non ci sono più le pernacchiette, quindi non muore alla fine di Narcos 2. Guarda, perché... non ti posso raccontare niente. Ti dico solo che la terza e la quarta stagione saranno molto probabilmente completamente diverse dalle prime due. Allora non dico di più, perché non voglio, magari c'è qualcuno che ascolta. Infatti, non diciamo niente. Questo Narcos, okay. Netflix. Invece sì. Sky ha annunciato in pompa magna l'arrivo di una serie che a me è piaciuta molto, che è The Affair. Sì, sono con te su questa serie, assolutamente. Anche perché lo dico sempre, a me piacciono le serie da femmina, quelle con le storie d'amore, i vestiti carini. Questa è, secondo me, sia da maschio che da femmina. Esatto, perché appunto, giustamente, perché racconta la stessa storia dal punto di vista di lei e dal punto di vista di lui, quindi giustamente, come tu dici, va bene da una parte, va bene dall'altra. Sì, sono d'accordo con te, è una delle serie più originali degli ultimi anni. In Italia arriva un po' in ritardo, nel senso che negli Stati Uniti sono già state fatte due stagioni, la serie è iniziata nel 2014, noi pian pianino qualcuno ci sarà stata una lotta per aggiudicarsela, adesso l'ha mandato in onda Sky dal 7 settembre, quindi è proprio fresca, e devo dire che è veramente molto bella, soprattutto per quanto mi riguarda, per il cast, per l'interpretazione dei protagonisti. E poi un'altra cosa che volevo dire è che secondo me la seconda stagione, che da alcuni è stata criticata perché secondo molti non reggeva il confronto con l'impatto della prima, per la sua originalità, per il tipo di narrazione che sperimentava, secondo me la seconda è ancora meglio, perché nella seconda stagione, vi do questa anticipazione da niente, non ci sono solo i punti di vista dei due amanti, cioè di Allison e di Noah, che sono i protagonisti della serie, ma anche dei rispettivi coniugi, quindi la cosa si complica ulteriormente. Poi c'è dietro non solo questa storia d'amore abbastanza sensuale, un po' torbida, ma anche un giallo, un delitto da risolvere. Fantastico. Prima di tutto capire chi è stato ucciso, perché non si sa all'inizio della serie, e poi come è stato ucciso, e ci vorrà, insomma, bisognerà starci dietro per capire come sono andate le cose, ci vorrà un po' di tempo, un po' di pazienza. Quindi assassinio e storia d'amore, va bene, per maschi e per femmine, per fare questa classificazione è buffa, ve lo dico, non lo sto dicendo sul serio. So che tu ami molto una serie della quale io non so nulla, che si chiama Brain Dead, che cos'è? Sì. Allora, secondo me a te piacerebbe tantissimo, conosco un po'. Allora, è una serie veramente strampalata, però molto bella, e la cosa positiva è che è andata in onda quest'estate, quindi fresca, ma sarà trasmessa da Rai 4 da breve, credo dal 15 settembre, una volta alla settimana in seconda serata, proprio come una serie normale, insomma, non in orari buffi, quindi in chiaro, quindi la possono vedere tutti. La consiglio assolutamente. È una serie creata dai coniugi King, da Robert e Michelle King, che sono gli autori di The Good Wife, che è finita questa serie che li ha impegnati per anni e anni, che ha vinto 1500 premi, hanno detto quest'estate facciamo una roba un pochino più così, ci divertiamo con i soldi che ci dà la rete, e hanno fatto questa serie che è ambientata a Washington DC, tra i senatori e tra la gente, insomma, che governa gli Stati Uniti, nella capitale, nel cuore della capitale, e la protagonista è la sorella di un senatore che scopre che ci sono degli insetti alieni che entrano nella testa dei senatori e degli uomini politici di rilievo, e cambiando la loro personalità. Beh, e rendendoli più estremi, sì, e più, sì, diciamo, mi piace. Qui i democratici diventano più di sinistra, i repubblicani diventano più di destra, e si capisce che c'è anche un piano per non si sa far cosa, per controllare l'umanità, partendo da questo, non si sa bene a cosa stiano facendo questi insetti. Il fatto sta che lei lo scopre, sono piano piano in due, tre personaggi riescono a capire che sta succedendo questa cosa, e quindi è una serie che è una via di mezzo tra West Wing, diciamo, da serie politica americana, e l'invasione degli ultracorpi, con toni che vanno dalla serietà assoluta alla satira alla follia più totale, perché ci sono delle scene che non stanno né in cielo né in terra. Io ho veramente visto poche serie così strane negli ultimi anni, e poi c'è una cosa divertentissima, che all'inizio di ogni puntata, dalla seconda in poi, c'è la classica, diciamo, il recap, il riassunto della puntata precedente, invece di essere fatto con le scene della della puntata precedente, è fatto con una canzone, con un karaoke di un cantautore che si chiama Jonathan Colton, che per ogni puntata ha creato una canzone che racconta dove siamo rimasti, e sono dei gioielli di canzoni, io li canticchio tutto il giorno. Quindi Brain Dead sarà anche la mia preferita. Grazie a Francesco Chignola. Francesco, ci ricolleghiamo in una delle prossime puntate, così parliamo ancora di altre serie TV. Quando vuoi. Grazie Francesco Chignola, noi ci ritroviamo dopo il giornale radio e poi sarà anche il momento di RadioTube.